Nel 1647, sotto il regno di Carlo I in Inghilterra, grazie all'opera del calzolaio Georg Fox, uomo d'indole cupa e melanconica, come lo definisce il Berger nel suo dizionario di teologia, si diffuse in Inghilterra, in opposizione appunto al clero anglicano, il quaccherismo, con i suoi bei successi, come la costituzione dello Stato della Pennsylvania, dal nome di William Penn, che era un compagno di estasi di Fox, e la fondazione della città di Filadelfia. Quacchero stava pressappoco per tremolante e designava lo stato di estasi in cui cadeva chi si credeva in comunicazione diretta con lo Spirito Santo. Stando così le cose, allora è comprensibile come i quacheri potessero fare a meno dei preti, ovvero di coloro la cui opera assidua, come quella della telecomedy Omnitel, garantisce il contatto fra chi chiama e chi risponde quando risponde. Ai quacheri e ad altri pericolosi sovversivi come loro siamo stati indotti a pensare l'Oliva ed io domenica mattina scorsa, proprio mentre tornavamo a casa, proprio dopo la trasmissione. Ci ritroviamo infatti dietro un elegante fuoristrada, targa svizzera e grande scritta in oro: Dio senza intermediari. E a dire la verità rimaniamo perplessi, anche se una versione svizzera di neoquaccherismo non sarebbe poi da scartare del tutto. Ma dietro al fuoristrada ci tocca rimanere, perché il traffico è quel che è, e avvicinandoci riusciamo a darci dentro una sbirciatina. Mistero risolto. Il bagagliaio del fuoristrada è occupato da un grande cartellone a sfondo blu, su cui campeggia il sorriso dell'onorevole Di Pietro, che rappresenta e codifica con tutti i crismi della certezza l'insegna del suo partito, l'Italia dei valori. E subito, appena se n'era parlato, appena questa luce accecante ci ebbe sorpreso, ci eravamo chiesti, ma di che valori si tratta? Abbiamo atteso. Invano, come se entrando in un negozio e chiedendo il prezzo di una merce il negoziante ci rispondesse costa e continuasse a ripetercelo in risposta alla nostra insistenza. Così l'Italia dei valori continua a costituire una minaccia della cui consistenza ci viene negata qualsiasi traccia. Quali sono questi valori? Valori che si trovano qui in Italia, tutto lì. Era poco, ma ora ne sappiamo di più, dopo domenica. Perché, punto primo, Dio senza intermediari sarà un partito anticlericale di persone che cadranno in estasi per il contatto diretto con il proprio leader. Scritta in oro e targa svizzera, attingerà ad una grande e consolidata tradizione italiana.